Marco. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Eccoci qua, cari ascoltatori, siamo dunque arrivati al primo di ottobre, il nostro consueto appuntamento del fine settimana con Punto a Capo ci porta attraverso le voci, i servizi, gli eventi di quella che è stata dunque l'ultima settimana di settembre, una settimana ancora fortemente dominata, come quelle precedenti peraltro, dai temi dell'Europa, dell'euro, del governo, della leadership, direi. La leadership, ecco, proprio al centro dell'ultima settimana di questo mese che ci lasciamo alle spalle. In discussione, in ultima analisi, nell'ultima fase, nelle ultime ore, quella di Banca Italia nell'era post-Draghi, ma in realtà, come vedremo, è una questione più ampia che ci porta al governo, alle massime istituzioni. Ma prendendo lo spunto, come anticipato, da Banca Italia, sentiamo subito il commento di Stefano Folli. L'impasse dimostra un'assenza di leadership, un'incapacità decisionale e soprattutto il rischio di rimettere una decisione così delicata che ha naturalmente un effetto sull'immagine del Paese, ma soprattutto diciamo sui delicati equilibri che governano il rapporto tra governo e Banca d'Italia, di rimetterlo a una dimensione politica che dovrebbe restare fuori, almeno non dovrebbe arrivare sul proscenio in questo modo così sgangherato, dando l'idea quasi di una rissa. Questo è molto pericoloso e dimostra, secondo me, la debolezza del governo, che avrebbe il dovere di decidere preservando per quanto è possibile la Banca d'Italia dall'essere coinvolta in questo tipo di confronti o di contrasto. Non c'è più tempo dunque, servono riforme coraggiose, servono subito. Questa è la posizione espressa molto chiaramente proprio alla fine della settimana da Emma Marcegaglia nel corso della presentazione del manifesto delle imprese per l'Italia. Un documento stilato dagli imprenditori, un fronte comune per sollecitare le riforme, appunto, una politica di riforme contro la crisi e per lo sviluppo economico. 5 sono le priorità: la spesa pubblica, le pensioni, la riforma fiscale, la cessione del patrimonio, le liberalizzazioni e la semplificazione, ma anche le infrastrutture e l'energia. Emma Marcegaglia ha poi annunciato che nell'ultima giunta di Confindustria ha avuto la delega di portare avanti proposte forti, coraggiosi, che se non andranno avanti, ha aggiunto il presidente di Confindustria, mi hanno anche dato la delega per non stare più ai tavoli con il governo. Eccola la nostra copertina, tra un momento sentiamo le notizie per chi è in viaggio e subito dopo ripartiamo e partiamo dalla Grecia. La Grecia che, come ha detto a metà settimana il presidente della Commissione UE, José Barroso, è e resterà nell'Eurozona. Punto e a capo. Gioco delle parti a Berlino, martedì sera. Angela Merkel riceve George Papandreou, il primo ministro greco. Insomma, la locomotiva tedesca, che più che mai guida la danza europea, ospita il paese simbolo di questa crisi, la Grecia, appunto. Germania determinante perché l'azione del EFSF, il forziere lussemburghese della Commissione, sia disponibile a intervenire a sostegno di Atene. Allora prendiamoci un momento per ragionare sugli acronimi. Questo FSF è sempre più ricorrente anche nella radiofonia, nelle televisioni. Sta per European Financial Stability Facility, EFSF appunto, comunemente il Fondo Salva Stati, che è stato creato dai membri dell'area euro per decisione Ecofin del maggio 2010. È una società che ha sede in Lussemburgo, è di proprietà degli stati membri. EFSF ha una dotazione corrente, pensate, di 750 miliardi di euro e per questo Standard & Poor's, la società di rating che la scorsa settimana ha punito l'Italia suscitando un putiferio, le riconosce un rating da tripla A, dunque il massimo possibile. In conclusione, alla testa dell'EFSF troviamo

possibilità di ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani, cioè il tasso di occupazione della classe più giovane tra 15 e 34 anni al sud è del 30%, 20 punti più basso che nel resto del paese, soprattutto femminile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questi erano dunque i dati Istat, sempre dalla stessa fonte, un nuovo dato sull'occupazione pubblicato ieri, lo leggiamo, l'occupazione ad agosto è aumentata dello 0,1 rispetto a luglio, sono 26.000 unità lavoro in più e dello 0,8% rispetto all'agosto 2010, quindi 191.000 unità, lo rileva l'Istat, spiegando tra l'altro che gli occupati tornano a superare i 23 milioni, che è il valore più alto negli ultimi due anni. Il provvedimento per lo sviluppo è intanto sul tavolo del governo. Mercoledì mattina incontro al vertice tra politica, industria e banche. Si punta, come sentirete, alle grandi opere per rilanciare l'economia, sostenere il lavoro. È un percorso ad ostacoli, quello del governo verso il varo del provvedimento per lo sviluppo, un tragitto fatto di accelerazioni e di brusche frenate. Da una parte il clima di disgelo tra Berlusconi e Tremonti, con l'obiettivo di arrivare ad un decreto per la crescita in due settimane, dall'altra il no della Lega a mettere mano alle pensioni di anzianità e il braccio di ferro tra Tesoro e Palazzo Chigi sul futuro governatore della Banca d'Italia. Quanto al rilancio dell'economia, questa mattina si è tenuto in via 20 settembre un nuovo incontro tra i ministri economici, Tremonti, Sacconi, Romani, vi erano anche Gianni Letta e Calderoli e i rappresentanti degli industriali e delle banche. Obiettivo numero uno del governo, una nuova stagione di grandi opere, linfa fresca dunque per le infrastrutture attraverso il meccanismo di detassazione per le imprese. Domani sarà la volta di un seminario sulle dismissioni, parteciperà anche il Presidente del Consiglio. Ma è la grana Banca d'Italia a dividere oggi la maggioranza, con Berlusconi che rinnova la sua fiducia all'attuale direttore generale di Palazzo Koch, Sacco Manni, nome questo gradito al Quirinale e allo stesso Draghi. Dall'altra parte ambienti del centrodestra guidati da Tremonti, molto più propensi invece per il direttore generale del Tesoro, Grilli. Resta alla finestra la Banca Centrale Europea, timorosa secondo indiscrezioni che venga garantita comunque l'indipendenza della Banca d'Italia dal potere politico. Bisogna puntare alla crescita, questo è il senso del documento firmato da 5 associazioni economico-finanziarie, mentre i giovani di Confindustria sbarrano la strada ai politici a Capri. Confindustria, ABI, ANIA, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative arricchiscono il manifesto del presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Dopo i 5 punti, la priorità resta la riforma fiscale per abbassare le tasse su lavoratori ed imprese, con la disponibilità ad accettare una patrimoniale. Non da meno infrastrutture, privatizzazioni, liberalizzazioni e pensioni. Intanto i giovani di Confindustria dicono no alle passerelle dei politici a Capri, non interverranno, li inviteremo solo ad ascoltare, promette il presidente Jacopo Morelli. Avevamo fatto proposte, ci hanno dato zero risposte, non vogliamo essere presi in giro. Per Morelli serve un governo che faccia scelte, coraggio e non codardia. Il paese è stanco, chiediamo ai politici lo stesso senso di responsabilità che abbiamo noi imprenditori e che hanno i nostri collaboratori nell'affrontare tutti i giorni questa difficile realtà. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una delle vitamine per la crescita è la semplificazione. Perché famiglie e imprese devono fornire certificati alla pubblica amministrazione che li ha già in casa? Basta certificati antimafia, basta pacchi di certificati per partecipare ai concorsi. Ci sono tante riforme che non costano nulla, ma che producono crescita. Così parlò martedì scorso il ministro Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, a margine della presentazione del nuovo logo, appunto, della PA. La sua affermazione sui certificati antimafia suscita un'immediata reazione del ministro Maroni e non solo, ma noi sentiamo a questo proposito il commento di Guido Gentili. Tra le vitamine per la crescita, il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta ha citato la semplificazione burocratica per cittadini e imprese. Bene, viene da dire, non c'è dubbio che su questo terreno c'è moltissimo da fare per un paese come l'Italia, dove i ritardi e le inefficienze della pubblica amministrazione frenano gli investimenti, anche quelli esteri. Brunetti ha però parlato anche dell'abolizione dei certificati antimafia ed il collega ministro dell'Interno Maroni, giustamente, l'ha subito corretto. I certificati antimafia, ha detto, non possono essere aboliti. In effetti la loro cancellazione potrebbe ottenere il risultato opposto, facilitando cioè la criminalità organizzata. In generale poi colpisce il tono estemporaneo del dibattito sulle vitamine per crescere. Si parla di tutto un po' e le proposte vivono e muoiono nell'arco di poche ore. Servono invece le riforme, quelle vere, e non il chiacchiericcio sul bricolage sviluppista. Certificati antimafia, dunque, cosa sono, come funzionano, servono davvero o sono, come ha detto Brunetta, un ennesimo fardello burocratico che magari non raggiunge lo scopo? Bene, ne parliamo questa sera a 30 minuti in cronaca, a partire dalle 19.30, di certificati e anche di grandi appalti, con un giornalista che da anni lavora su questi temi. Punto e a capo. E quest'ultima settimana di settembre è stata anche quella dell'intervista fiume che Walter Lavitola, già direttore dell'Avanti, uomo d'affari vicino a Berlusconi, ha rilasciato a Bersaglio Mobile, il programma di Enrico Mentana sulla 7. Un collegamento fiume dai luoghi della latitanza per parlare di tarantini, di affari, di escort o presunte tali. Insomma, l'ex direttore dell'Avanti, il giorno dopo l'intervista, corregge se stesso su diversi punti via agenzia. Ieri, per esempio, scrive: il presidente Berlusconi non mi deve alcunché. La Vitola aveva detto di aver anticipato lui i 500.000 euro destinati dal premier a Tarantini e di avere ricevuto il rimborso solo per circa la metà della somma. Insomma, ora afferma che invece Berlusconi gli ha rimborsato tutto. E a proposito di Tarantini, sono arrivati ieri mattina a Bari dalla Procura di Roma gli atti dell'indagine sui soldi, appunto, che Giampaolo Tarantini ha ricevuto dal premier Silvio Berlusconi tramite Walter Lavitola. Gli atti ora si trovano nella segreteria del procuratore aggiunto Pasquale Drago. Intorno a questi temi, accanto, vicino, lunedì, sul tema della moralità pubblica, parla la CEI. Carlo Marroni ci spiega in questo servizio che l'intervento del cardinale Bagnasco rappresenta una vera e propria presa di distanze formali dal presidente del Consiglio, anzi la fine di un patto di reciproco interesse. Negli ultimi due anni la CEI era più volte intervenuta sulla moralità pubblica e quindi indirettamente su Berlusconi, ma quello di ieri rappresenta uno spartiacque. Il cardinale Bagnasco è un prelato prudente e pesa alle parole, quindi se parla di purificazione dell'aria e di deterioramento del costume, significa che la linea della Chiesa è davvero cambiata. È saltato insomma quella specie di patto che lasciava al cavaliere una sorta di immunità in cambio di legislazioni non ostili. Patto per la verità stretto più con la curia centrale che con la CEI, specie dopo il caso Boffo. Ma che non si tratti di una condanna episodica è dimostrato dal fatto che Bagnasco la scorsa settimana ha incontrato il Papa e lo stesso pontefice, all'inizio del viaggio in Germania, in un messaggio al presidente Napolitano ha auspicato per la cara Italia un rinnovamento etico. Una successione che, letta alla luce del discorso di ieri, appare tutt'altro che casuale. Punto e a capo. Che fine ha fatto il colonnello Gheddafi? Ormai sono settimane che ci interroghiamo in proposito. Dunque, Muammar Gheddafi sarebbe nascosto nella zona di Ghadames, al confine con l'Algeria, e sarebbe protetto dai Tuareg. Lo affermano fonti del Consiglio Nazionale di Transizione, che dicono appunto che il colonnello sarebbe di fatto in questa piccola cittadina oasi della Libia occidentale, circa 600 chilometri a sud-ovest di Tripoli, un passo di fatto verso l'Algeria, e circondato da questo gruppo appunto di nomadi armati dei Tuareg che negli anni sono stati lungamente sostenuti dal colonnello. Tra l'altro, secondo fonti americane, sarebbero in corso proprio tra il Qatar e il governo algerino delle trattative per la consegna di Gheddafi. Allora, perché il governo algerino? Perché, come abbiamo detto, di fatto il colonnello sarebbe a un passo da quel territorio. Vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ma intanto, per completare il quadro, vi informo che mentre il colonnello sarebbe a Ghadames, il Niger ha rifiutato ancora una volta di estradare Saadi Gheddafi, dopo la richiesta formale, mentre Saif al-Islam si nasconderebbe a Bani Walid, quindi vicino a Misurata, e suo fratello Mutassim a Sirte. Insomma, i Gheddafi letteralmente divisi e distanti in quella che ormai sembra una fuga in ordine sparso. Anche i gruppi islamici dovranno partecipare al nuovo governo della Libia e non permetteranno di restare ai margini della trattativa per la suddivisione dei poteri. L'avvertimento è stato lanciato da uno dei comandanti più potenti dell'opposizione al regime di Gheddafi. La dichiarazione, pubblicata dal Guardian, tale posizione conferma le divisioni per la spartizione degli incarichi che hanno ritardato la formazione del nuovo governo provvisorio in Libia. Il Consiglio Nazionale di Transizione ha infatti deciso di aspettare fino alla liberazione totale del paese per dare vita a un nuovo esecutivo. Sul fronte della guerra, Sirte resta nella morsa dei combattenti ribelli, impazienti di mettere le mani sulla città natale di Gheddafi. Il Rais però non si dà per vinto e annuncia di essere pronto al martirio, ma anche a colpi di coda dell'ultima ora, riservando ai ribelli uno shock inatteso. E questo è il messaggio che Gheddafi ha rilasciato a una radio libica. Restiamo in zona in qualche modo, dal sud libico al Sudan confinante, ancora allarme sul fronte della crisi alimentare nel Corno d'Africa. Ormai sono 12 milioni le persone coinvolte secondo le organizzazioni umanitarie internazionali. Proprio in questa settimana un nuovo allarme causa sfollati, profughi, generati da una nuova esplosione di scontri tra il Sudan e il Sud Sudan, stato neonato. Ecco, proprio al Sud Sudan la settimana prossima dedicheremo un viaggio, un racconto su quello che è l'ultima realtà africana, ma che anche è un crocevia di interessi estremamente complesso. Spero che ci vorrete seguire. E chiudiamo proprio con questa parte del mondo ricordando un'altra notizia che arriva in realtà da Sana, quindi insomma siamo un po' più lontani. Anwar el-Awakli, l'imam radicale ma cittadino statunitense di origine yemenita, considerato molto vicino ad Al-Qaeda, uno dei tre most wanted della CIA, è stato ucciso. Lo ha annunciato venerdì il Ministero della Difesa yemenita. Punto e a capo. Elle s'est déroulée, j'ai eu face à moi exactement le Dominique Strauss-Kahn que j'ai vu dimanche soir sur votre plateau. Domenica sera era esattamente lo Strauss-Kahn che ho visto appunto sulla vostra scena, nei vostri studi televisivi. Così racconta Tristan Banon, la giornalista francese, che dopo due ore di confronto faccia a faccia con Dominique Strauss-Kahn appunto ha confermato le accuse di tentato stupro nei confronti dell'ex numero uno dell'FMI, poi scagionato negli Stati Uniti per la nota vicenda. La stessa Banon ha parlato in questa intervista che sentiamo in sottofondo al canale TF1. Io l'ho guardato sempre negli occhi, ha detto tra l'altro, lui non ne ha avuto mai il coraggio, c'è stato un tentativo di violenza. Strauss-Kahn, ha concluso, è un arrogante che non ha osato guardarmi in faccia, ma aveva sempre soltanto quel sorriso stampato sul volto. Punto e a capo. Wilson Kitback è morto questa settimana a Buffalo, negli Stati Uniti, aveva 92 anni. Il suo nome probabilmente non vi dirà nulla o non vi avrebbe detto nulla fino a qualche giorno fa, ma di certo la sua invenzione fa parte del linguaggio corrente e delle speranze di molti. I pulled out the wrong resistor out of a box and got un ingegnere prestato alla medicina che ha salvato milioni di vite. Il nome di Wilson Kitback ai più non dice molto, ma l'invenzione che lo consacrerà per sempre nella storia, sì. A lui si deve l'invenzione del cuore meccanico, il pacemaker. Ora è il suo cuore ad essersi spento. È morto a Buffalo, negli Stati Uniti. Aveva 92 anni. Una vita lunga per un uomo che ne ha dedicato gran parte a regalare giorni, mesi, anni in più anche ad altri. Il primo pacemaker venne impiantato su un essere umano nel 1960. Il paziente, 77 anni, visse altri 18 mesi dopo l'intervento. Un'intuizione geniale. Oggi centinaia di migliaia di persone ricevono un pacemaker ogni anno. Wilson Grytbak. Ha guidato fino all'ultimo l'azienda che porta il suo nome. Gli eredi continueranno a produrre ora le batterie per tanti cuori meccanici, ora che quello del suo inventore si è spento. Punto e a capo. Dagli Stati Uniti torniamo in Italia e andiamo nel paese sommerso. Come sapete, il paese sommerso è una rubrica di storie di ordinaria evasione fiscale che la nostra Valentina Furlanetto sta raccogliendo in queste settimane. Sentiamone una. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Si dice quote latte, si legge evasione fiscale e vi spieghiamo perché. La storia comincia nel 1984, quando l'Unione Europea decide di assegnare una quota di produzione ad ogni paese. La quota serve a tenere il prezzo del latte a un livello giudicato remunerativo per tutti gli allevatori europei. All'Italia viene assegnata una quota molto bassa, circa metà di quanto effettivamente prodotto. Ed è questo che da quasi 30 anni scatena le proteste dei cosiddetti COBAS del latte, che vogliono produrre di più e sforano le quote. Ma perché all'Italia viene assegnata una quota così bassa? Semplice, perché evadiamo le tasse. L'Europa, infatti, ci ha assegnato la quota che noi italiani abbiamo denunciato di produrre. Ci hanno dato quel che abbiamo dichiarato. Il resto, infatti, lo avevamo prodotto in nero. Tutto scritto nelle carte e ripetuto dal ministro Giancarlo Galan il 12 luglio 2010. La questione quote latte, quindi, a ben vedere, è anche una storia di evasione fiscale. Gli allevatori che protestano piangono per un male che si sono arrecati da soli, denunciando meno di quanto producevano. E intanto lo Stato, e quindi noi contribuenti, paga. Beffati due volte, perché non abbiamo incassato le tasse sul latte nero prima e perché paghiamo ora multe da 3 miliardi di euro all'Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete capito, no? Era molto chiaro. Fare i furbi ci frega tutti. E poi magari andiamo a dire che a Bruxelles sono tutti cattivi e ce l'hanno con noi. Grazie a Valentina Furlanetto. Vi ricordo che tutti questi appuntamenti con il paese sommerso li ritrovate sul sito, naturalmente, www.radio24.it. Punto e a capo. La cronaca della settimana ci porta anche a Perugia. Lunedì, dunque dopodomani, si attende la sentenza del processo per l'omicidio della studentessa britannica Meredith Kerschner. Alla lettura è prevista la presenza della madre di Meredith, Arlene, della sorella e di uno dei fratelli. La famiglia della studentessa inglese si è costituita parte civile, tramite ovviamente avvocati italiani. Beh, ma intorno a questo processo, anche sul ruolo degli avvocati sui tempi, sentiamo, raccolto da Anna Migliorati, il parere di un collega giornalista di Sky che da Londra è stato inviato a seguire il processo. Si chiama Nick Pisa. Sentite cosa ne pensa dei tempi del processo. È un processo molto diverso da quello che siamo abituati, diciamo, nel Regno Unito, perché è durato molto tempo, cioè quasi 10 mesi, e poi questo fatto di avere delle udienze soltanto due volte alla settimana. La maggior parte delle udienze per il primo processo, anche questo, sono state soltanto di venerdì e sabato, perché per il motivo che uno degli avvocati degli accusati, Raffaele Sollecito, l'avvocatessa Giulia Buongiorno, ovviamente un deputato in Parlamento, e aveva lavori da fare in Parlamento a Roma durante la settimana, quindi le udienze si sono fatte fine settimana. Questa è una cosa che hanno trovato abbastanza strano il pubblico inglese, perché lì, quando inizia un processo, prosegue giorno dopo giorno fin quando non finisce. Quindi abbiamo fatto, non so, quante udienze, mi sembra 2 al mese. Certezza in primo grado, ora si parla sempre più di assoluzione. Ma per dire la verità, anch'io penso così, perché cioè la prova schiacciante per me non c'è, cioè se hai un ragionevole dubbio non puoi condannare due ventenni a spendere ad ergastolo, perché qui stiamo parlando di due ragazzi di appena 25, Amanda 24, Raffaele 27, ergastolo per loro per qualcosa che sembra dal processo dell'appello che non hanno fatto, mi sembra non giusto. Punto e a capo. La vita di coppia vi ha fatto perdere o guadagnare in termini di benessere? Questo è uno dei temi che Nicoletta Carbone ha affrontato venerdì in Essere e Benessere, che vi ricordo ogni giorno dal lunedì al venerdì in onda alle 11. Bene, un ospite particolarmente vivace e simpatica come Carla Signoris, che è attrice, scrittrice, conduttrice e moglie di Maurizio Crozza, ha risposto così. Io sono assolutamente una sostenitrice della vita di coppia e della vita anche di casa. È vero che ti toglie delle cose, ma è vero che te ne regala tantissime altre. Se riesci a riderci sopra anche delle cose che certi giorni ti fanno ridere, certi giorni ti fanno disperare e imbestialire. Andiamo sempre e sempre comunque di corsa, e la vita di coppia e la vita in casa comunque dovrebbero essere, certe volte ci riesce ad essere un momento di pausa, di serenità. Sono pigra da morire, ma chi mi vede girare per Genova, la città dove vivo, che vivo praticamente vestita sempre in tuta e dicono quella passa la giornata in palestra. Invece e piuttosto che andare in palestra, mi ammazzo. No, assolutamente. Peraltro la vita di è vero comunque che gli uomini il giorno dopo, mio marito, il giorno del matrimonio pesava 70 kg, il giorno dopo 90. Punto e a capo. Eccoci qua, cari ascoltatori, per gli ultimi minuti insieme in questo appuntamento di Punto e a Capo. Come vi ho annunciato, tra poco parliamo di cinema, ma intanto parliamo di pallone, parliamo di calcio con Carlo Genta, che è venuto a trovarmi in studio. Carlo, la settimana scorsa parlavamo dell'Inter in ginocchio, insomma la tragedia interista di inizio stagione, e direi che questa settimana un po' le cose sono cambiate. No, sono cambiate radicalmente, direi, Gigi. La settimana scorsa un po' brutalmente parlavo di esecuzione di Gasperini, ma queste due vittorie di campionato e a Mosca non fanno altro che confermare che appunto Gasperini sta benone, un però blando eufemismo, lo spogliatoio non credeva tanto in lui. Ranieri ha sistemato la squadra con molto buon senso, ha dato ai giocatori che contano in quello spogliatoio tutto sommato quello che volevano, cioè campo e soprattutto campo nei ruoli di pertinenza. La squadra ha risposto, perché l'Inter non si è imbrocchita in un colpo, e dunque adesso c'è una partita crocevia della stagione. Domani sera a San Siro c'è la sfida con il Napoli. Quindi l'Inter affronta il Napoli, però c'è anche qualcos'altro da non dimenticare, direi, in questo weekend di calcio. No, è il primo grande weekend stagionale, perché c'è questa partita domani sera e già insomma Mazzarri ha detto non è la sfida scudetto, e invece Ranieri ha risposto no, è molto importante. Sono d'accordo con Ranieri, ma c'è un'altra partita importantissima, che è quella di Torino, che chiuderà questa giornata. C'è Juventus-Milan, una partita che ha mille significati emotivi, prima grande gara della Juventus nello Stadio Nuovo. E dall'altra parte il Milan, che pur tra mille difficoltà, vincendo a Torino, potrebbe agganciare la Juventus e quindi uscire in pratica da vincitore di questa prima tappa di stagione, cioè primo in classifica in Champions League e alla pari della Juventus, pur con tutti gli infortunati che il Milan ha avuto. Carlo, per gli approfondimenti in questo weekend, quando ti sentiamo? Soliti appuntamenti, quello del sabato pomeriggio dalle 17 alle 18 per A Tempo di Sport, e poi domenica dalle 16.30 alle 19, soprattutto per parlare con gli ascoltatori. Grazie Carlo Genta. Punto e a capo. Eccoci qua dunque, ve l'avevo ampiamente anticipato, il nostro consueto appuntamento con il cinema in quest'ultima parte di Punto e a Capo. Questa settimana parla di Crialese, di Terraferma, degli Oscar, insomma parla con Marta Cagnola, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Marta. Buongiorno a tutti. Allora, Crialese era in qualche modo un film annunciato, diciamo un film importante ancora prima di vederlo, di sentirne parlare a Venezia. L'Academy dunque l'ha scelto, sarà il candidato a rappresentare l'Italia. Allora, facciamo un passo indietro. Sì, era un film annunciatissimo, era soprattutto un film attesissimo, lo attendevamo dai tempi di Nuovo Mondo e come sai si alimenta questa attesa dei film e si comincia a dire lo vedremo a Berlino, no, lo vedremo a Cannes, finalmente l'abbiamo visto a Venezia. Era molto atteso soprattutto perché appunto Nuovo Mondo, che lo aveva preceduto, era stato un grande successo, era stato candidato all'Oscar, purtroppo non è arrivato alla statuetta, ma insomma le credenziali c'erano tutte. È andato molto bene a Venezia, premio speciale della giuria, si attendeva questa nomination. Sappiamo che c'è una commissione nominata dall'ANICA che ogni anno, i membri cambiano, ma ogni anno decide un film che rappresenterà l'Italia, non necessariamente nella cinquina degli Oscar, ma sarà il film italiano che i membri dell'Academy potranno scegliere. Ok, quindi l'Academy non c'entra niente, io ho detto una sciocchezza, quindi non è una scelta che nasce negli Stati Uniti, ma al contrario dall'Italia che viene inviato il prodotto, diciamo, considerato più adatto. Sceglieranno adesso, e infatti noi abbiamo parlato subito con Emanuele Crialese, lo stesso giorno, poche ore dopo questa scelta dell'ANICA. Cosa succede? Adesso c'è tutto il lavoro per Emanuele Crialese, perché saranno i membri dell'Academy a dover decidere entro il 24 gennaio, giorno in cui verranno rese note le nomination, i cinque film stranieri. In realtà prima di solito viene scremata una shortlist. Cosa succederà nel frattempo? I membri dell'Academy devono vedere il film in sala, quindi sta ai vari paesi creare una promozione, una distribuzione, insomma ci vuole un grosso investimento negli Stati Uniti. Tutto questo l'abbiamo chiesto subito a Emanuele Crialese. Se ti va Gigi, ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio a poche ore da questa scelta Emanuele Crialese. Sentiamolo. Sono quelle emozioni che sono sempre, insomma, sono sempre molto forti, non c'è una seconda, una terza volta. È come la nascita di un bambino, ogni volta è una grande emozione, anche se ne fai 10. Adesso succederà che intanto stiamo realizzando quello che è successo, e l'abbiamo realizzato da poche ore. E dal momento che siamo tutti molto scaramantici, non abbiamo fatto nessun programma, e credo che però, insomma, da domani cercheremo di capire come muoverci rispetto agli Stati Uniti. Però adesso è anche una responsabilità in più, perché questo film dà un'immagine dell'Italia. Guarda, è un film che ha un'identità profondamente italiana, però non è un film che possono capire solo gli italiani, secondo me. È un film che porta al pubblico un tema universale, che è il tema della solidarietà. E io credo che questo sia un tema a cui si devono confrontare tutti i paesi del mondo. Quindi me la prendo questa responsabilità, me la prendo perché comunque so che i valori che trasmette sono valori, credo, condivisibili. A volte vengono accusato su questo film di essere politically correct. Va bene, allora io ci sto, non la prendo come un'accusa, la prendo come un complimento, correttezza, rispetto verso l'altro. Non c'è bisogno di scioccare per attirare il pubblico in sala, quindi io mi prendo questa responsabilità e mi piace, insomma, mi piace che Terraferma ci rappresenti in questo momento. Ascoltando Crialese riflettevo sul fatto che in fondo gli Stati Uniti, ma non solo, il cinema internazionale apprezza molto una parte di storia che molti invece alle nostre latitudini tendono un po' a scartare, cioè i grandi temi della migrazione, della povertà dunque, delle difficoltà della vita e di questo luogo fisico che al di là di tutte le politiche e le decisioni è l'Italia, per cui i flussi passano, per cui come dire, è in fondo un classico, un grande classico del cinema italiano. È un grande classico del cinema italiano, tutti subito fanno a gara a capire quali potrebbero essere gli elementi che potrebbero piacere agli americani. C'è questo elemento, c'è banalmente una bellissima fotografia, ci sono queste straordinarie isole e quindi un paesaggio naturale favoloso che può piacere agli americani. Mi sembra di evocare Mediterraneo. Evochiamo Mediterraneo con una storia ovviamente molto diversa, però tutti hanno pensato che magari potrebbe colpire quella corda, questo terraferma. Ovviamente è ancora presto, perché adesso l'obiettivo è quello di arrivare nella cinquina. Quindi c'è ancora tutto questo per Emanuele Crialese, che è già molto preciso in questo. Certo, ha già battuto concorrenti come Nanni Moretti e Abemus Papam, oppure noi credevamo di Mario Martone, ma anche Vallanzasca, Gli Angeli del Male di Michele Placido, che magari avrebbe colpito gli americani su qualcos'altro. Insomma, film che avrebbero potuto avere una chance con l'Academy in maniera diversa, però secondo me alla fine, proprio per questi aspetti, qualche possibilità il nostro Crialese ce l'ha, speriamo. Speriamo assolutamente. Marta, c'è qualche altra novità da segnalare in questo fine settimana? Beh, per chi volesse andare al cinema, finalmente escono alcuni film di cui abbiamo sentito parlare in occasione dei vari festival. C'è il veneziano A Dangerous Method di David Cronenberg, vabbè, insomma, è passato poco tempo da Venezia. L'horror Blood Story, che avevamo visto al Festival di Roma l'anno scorso, e la miglior regia a Cannes, Drive. Quindi anche qui sono passati alcuni mesi. La grande uscita però in termini di sale questa settimana, 400 schermi, è una commedia. Vedremo se anche questa stagione sarà la stagione delle commedie. Intanto comincia questo Baciato dalla Fortuna, una garbata commedia di Vincenzo Salemme. È la storia di un uomo che cambia la vita vincendo al Superenalotto o credendo di averlo fatto. Noi abbiamo incontrato Vincenzo Salemme, ecco cosa ci ha raccontato. C'era un atto unico mio di 20 anni fa, dove un uomo era conteso da due donne perché aveva vinto una schedina all'epoca. Invece poi, quando l'abbiamo rivisto, mi sembra che l'argomento sia molto attuale, perché è un momento in cui il ceto medio soprattutto è portato a sognare, a sperare in qualcosa che non dipenda dalla propria volontà, perché il gioco, insomma, in questo caso non il gioco d'azzardo, ma il gioco è una speranza, è quasi la bacchetta magica per risolvere i problemi senza dover lavorare troppo. Siamo all'inizio in pratica della nuova stagione cinematografica. Quella passata è stata la grande stagione delle commedie. Come vedete voi l'inizio di questa stagione nuova? A me le stagioni devono durare tanto. Ancora non è finita quella, quindi sarà ancora la stagione della commedia. Speriamo sia la stagione del cinema in generale. Grazie a Marta Cagnola, che sentite tutte le mattine nell'appuntamento del GR della Cultura. Noi siamo davvero in conclusione. Valeria Bernardi in regia, da Gigi Donelli che ha condotto questa trasmissione, l'augurio di un ottimo fine settimana, l'appuntamento come di consueto per sabato prossimo subito dopo le 9. A presto.